carestie, pestilenze, uccisioni. Sembra avverarsi la profezia della sesta era. La fine del mondo temporale. Che volevo, e ora torna tutto, e a me non resta niente come sempre. Sono spunto nero perché vago nel catrame, inerme. Oggi è sopravvivere, domani essere assente. Io no, voglio deglutire il boccone amaro che mi tocca assaporare. Un gusto marcio, un gusto marcio, vorresti non sentirlo mai. Quel gusto marcio, vorresti non sentirlo mai. Quel gusto marcio, è il gusto del tempo a cui non piaccio più. Odio, asfalto, ipocrisia, potere, sangue, corruzione, nell'era dell'oltraggio, guerra, fame, malattia, schiavitù, morte, distruzione, e questo gusto marcio. Odio, asfalto, ipocrisia, potere, sangue, corruzione, nell'era dell'oltraggio, guerra, fame, malattia, schiavitù, morte, distruzione, e questo gusto marcio. Questo è il futuro e per di più prepara nuovi intulli. Sei una vittima del rito scritto e narrano che tu dico stai zitto, zitto, iniziano i subbugli. Un gusto marcio tronca l'appetito impietrito dai miscugli. Sugli occhi tuoi il buio puoi scamare sciocchi. Siete troppi voi mentre noi diversi in pochi. Siete troppo buoi, noi avanziamo tra gli intoppi fino al botte, poi riecheggiamo fra gli scoppi. Puoi trovarci al margine, sull'argine del fiume opposto a starmene. Puoi darmene, ma io non voglio andarmene. Non possono confiscarmene anche il mio posto. No, negare a me persino quest'ultimo avamposto. Aio, scorri bande notturne graffitandone, mostrando che ancora noi esistiamo con le bombole. Inondale, di pareti sondale, poi sfondale. Ormai ci resta solo questo, ma ci dobbiamo nascondere. Sta società ci vuole annullare, fondere in un unico cervello. Monopensante, rompere il cancello antistante, sfondarlo per corrompere, farei di questi umani animali per far compere. Scombererei se fosse solo per me stesso, ma non combinerei un cazzo perché arriva adesso. Poi strambo sarei se non pensassi che c'è un nesso, quando vorrei che i figli miei non crescessero in sto cesso. Questo è l'Annus Dei, Noa, quando venne il grosso boa, creando dei cataclismi come Amuroa. Soa, cosa andiamo incontro? Ora è l'ultimo scontro, a un giusto marcio come la Shoah, per sempre contro al odio, asfalto, ipocrisia, potere, sangue, corruzione, nell'era dell'oltraggio, guerra, fame, malattia, schiavitù, morte, distruzione, e questo è un gusto marcio. Odio, asfalto, ipocrisia, potere, sangue, corruzione, nell'era dell'oltraggio, guerra, fame, malattia, schiavitù, morte, distruzione, e questo è un gusto marcio.